24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Che poi non erano tacchini, passeri, era un piccione, ci ha svelato Bersani, e quindi aumenta così il panorama. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, siamo qui con 24 mattino in diretta fino alle 9, la nostra Miriam Lucchetti che è già zampetta in redazione da ore e ore, e il nostro alpino perché ride, zampetta nel senso salta qua e là, perché per prendere i file, tagliare i file eccetera. E il nostro alpino Peter Bescapè in regia, ricordatevi sempre. But please relax. Ovviamente. E allora apriamo il nostro bar condicio. Forza. Sura Claire e Nicole Minetti che ci offre il caffè. E avete finito di rompere le palle con la Minetti? E la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare d'altro. Andate a lavorare, pelandroni. Un po' di altro ogni tanto parliamo, anche di cose pregnanti, come, che ne so, Balotelli, ecco, parleremo di questo. Comunque voglio salutare Paola Saluzzi, buongiorno, eccoci. Ma buongiorno, bar condicio, buongiorno. Dobbiamo parlare di un sacco di cose stamattina. Ah sì? Siamo pronti. E come fai a saperlo? Ah vabbè, come sempre. Saluto anche... Ti seguo su Twitter, sono la vostra fedelissima, faccio parte di quel gruppo che ormai ha costituito un vero e proprio partito. Un vero e proprio partito, sì. In marcia su Palazzo Chigi, in marcia sul Parlamento. Abbiamo più voti delle bidelle, io ho più seguaci delle bidelle d'Italia, 15.000 follower. Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che però, direttore, buongiorno. Buongiorno, direttore. Ma su Twitter, buongiorno. Luca Dini non c'è, Luca Dini, proprio non ha l'account. No, non c'è. Ahia, e come mai? È una scelta... Diciamo, come dice, mi si nota di più se ci sono o se non ci sono. Ah, ecco, no? Perché noi ci arrovellavamo, ma come sarà l'account di Luca Dino? Quando e se mai ci entrerai, vogliamo essere ovviamente tuoi follower subito. Allora, vogliamo subito sentirlo, perché insomma è l'argomento anche dei giornali del giorno, Silvio Berlusconi, qualche tempo fa. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, così si usa dire, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo per vicende della vita di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Eccolo lì, comprato Balotelli per 20 milioni di euro. C'è da dire, Luca Dini, qualche giorno dopo Berlusconi poi chiese scusa dicendo: secondo me, io la dico così, ma tu che sei direttore di un settimanale molto seguito su queste cose ne sai più di me, secondo me era una questione così di gelosia tra donne, cose che passano. Boh, era stata una frase detta un po' così, magari. Può darsi. Era stato frainteso, come sempre. Era stato frainteso come sempre. Però la questione che ora è posta sui giornali è questa, ed è una questione seria. Filippo Facci, per esempio, oggi lo scrive su Libero: io non voglio credere che un italiano possa votare Berlusconi perché è milanista e perché gli ha comprato Balotelli. Se esiste una persona del genere, voglio conoscerla, voglio guardarla in faccia. Esiste, secondo te, direttore, una persona del genere? Esistono, perché si parla di 2% di consensi che possa spostare l'acquisto di un Balotelli. Esistono, 2% mi sembra un po' esagerato, però esistono sicuramente, non è la prima volta che ne abbiamo la riprova. Infatti una volta prese anche Ibrahimovic. Paola Saluzzi, secondo te ci sono degli italiani che voteranno Berlusconi? Intanto l'ha comprato a sua insaputa, parliamo di questo. Vabbè, <so. ride> in questo momento abbiamo anche detto la Lollo che si è sposa a sua insaputa, e quindi sono tutti che fanno qualcosa all'insaputa. Allora può essere, c'è una bellissima scena di Miracolo di San Gennaro con un grande Nino Manfredi, regia di Dino Risi, dove per convincere il santo a fare il colpo, insomma, questa banda gli dice: ti compriamo Eusebio. Sì. Il no tempore è evidentemente grande giocatore. Certo. E ora lì dovevano cominciare un santo. Qui sono meno santi, come è giusto, i tifosi, ma può valere per il Milan, può valere per l'Inter, può valere per la Juve, insomma. sai mai, forse sì. Ma ho capito, ma cioè, voglio dire, ma, per carità, non voglio fare considerazioni antropologiche, lungi da me, eccetera, ma uno vota una persona perché acquista un giocatore? Oppure cioè, uno vota una persona perché è convinto da quella sì, persona? Ma se sei stufo di votare e a un certo punto dici, sai che c'è, quello mi è simpatico. E allora, siccome mi compra Balotelli, vado a votare. Però sai che cos'è, Alessandro? Ma io non no, dimmi. Nel suo caso, nel caso di Berlusconi... Il fattore presidente del Milan, diciamo, è una parte veramente importante della sua identità. Ma non c'è dubbio. Come il successo di imprenditore, quindi... Ma non c'è dubbio. È un fattore che ha un peso. Ma no, ma ha un peso sicuramente, per carità. Poi io, per la verità, non capisco dall'altra parte il discorso, non so, la prima pagina oggi del Manifesto, che poi mi sono anche perso. Eccola qua. Il Manifesto titola: si compra Balotelli per 20 milioni nell'anno in cui tagliano il welfare del 75%. Ma che c'entra? Cioè, voglio dire, cioè, che c'entra il paragone? Senza niente. No, non ho capito, voglio dire, il problema delle politiche sociali tagliate è un problema, la CGIL denuncia questa cosa e Berlusconi spende 20 milioni per... È un po' come quando Luca si diceva, gli stipendi dei calciatori nell'epoca in cui, no, che vergogna, c'è gente... Però non sono leggi di mercato che purtroppo ci sono? Beh, o comunque diciamo non... I soldi dati dai privati ai calciatori possono essere più o meno scandalosi, ma non sono soldi tolti al welfare. Infatti, cioè, non ho capito. Non sono basi comunicanti. Cioè, capisco che può scandalizzare, ma in questo caso non è neanche il presidente del consiglio, per cui si dice il presidente del consiglio spende 20 milioni, ma poi sono 20 milioni suoi. Vabbè, ma qui c'è sempre un po' il. Lo scandalo, come sempre, sono casomai le indennità dei parlamentari, della politica, dei rimborsi della politica, quelli sono soldi tolti alle casse dello Stato. Allora, visto che hai detto le indennità della politica, io volevo arrivarci con calma, perché adesso devo fare arrabbiare, cioè, i nostri ascoltatori oggi perderanno la testa. Io ho messo questo hashtag, sai Luca cos'è l'hashtag, pur non essendo su Twitter, mani sul volante, perché oggi uno prende il secolo XIX. Sapete che in Liguria da giorni c'è la questione delle mutandine, lo champagne, i profumi che si sono acquistati. Oggi il titolo del secolo XIX è questo, cioè sono andati la procura a verificare a casa di uno che era il cosiddetto tesoriere dell'Italia dei Valori in Liguria e hanno scoperto, reggetevi forte, hanno scoperto che oltre ai 10.000 euro al mese di consigliere di stipendio, i consiglieri dell'Italia dei Valori si imboscavano pure 2.000 euro in nero in aggiunta come stipendio. Cioè era tutto contabilizzato. A casa di questo signore a Sarzana hanno trovato nei cassetti 2.000 euro al capogruppo, 1.800 a questa, 1.000, tutto in nero. E oggi il secolo dice: pensavamo con gli slip e le mutandine di aver toccato il fondo. Invece scopriamo anche questi, i consiglieri a doppio stipendio, 2.000 euro in mese. In più, basta! Ecco, è partito il nostro Oscar Giannino così. Ma io ve la faccio sempre questa domanda, cioè cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo scavare di più, Luca Dini? Cosa dobbiamo fare? Siamo arrivati al cemento, cosa scopriremo ancora? Mi sembra che fosse un rischianto, che dicevano, ho pensato tante volte nella vita di essere arrivato a toccare il fondo e poi ho cominciato a scavare. Mi sembra che sia un po' così. Ieri tra l'altro avevamo Antonio Di Pietro ospite e ci ha regalato una delle battute delle sue, no? Quando gli ho sentite cosa ha detto, Di Pietro deve fare un salto anche in Liguria, sa che la gente si è molto arrabbiata per leggere quello. Lei dice noi dell'Italia dei Valori siamo parte lesa per quello, la parte lesa veramente sono i cittadini che hanno visto tutte queste spese dei consigli. Avete sentito? E che sono Paola? Quando gli ho chiesto, fai che sono io un figlio di puttana? Sono un cittadino pure io. Ho capito, però non è che può dire Di Pietro sono la parte lesa. Qui dovremmo aggiungere però una cosa, cioè andare a scavare, questo sì, nelle singole persone che prendendo in più 1.800 euro in nero hanno messo nel conto dei soldi pubblici i dischetti per struccarsi. Parlo da donna, i dischetti di cotone per struccarsi. Ma secondo me la questione... Ma ce l'hanno uno stipendio questi? Ma come no? Ma certo che ce l'hanno lo stipendio, ma io continuo a insistere che secondo me un po' l'occasione fa l'uomo ladro. Se tu dai l'opportunità a dare una massa di denaro... come dire, c'è la persona retta e onesta che non cederà mai, ma c'è la persona che... detto alla Romana, ti devi vergognare di presentare lo scontrino della profumeria. Ma non si vergognano di niente. Ma non si vergognano di niente. Cioè... Posso dire una cosa? Sì. Esiste anche una responsabilità, secondo me, di chi fa, come dire, lo scouting, perché insomma... Razzi, Scilipoti, consiglieri, insomma, a me sembra che Di Pietro forse dovrebbe anche cominciare a spiegare come, dove da trovare queste persone, perché onestamente io pescando fra le mie amicizie fatico a trovare persone così, ma diciamo fra le mie conoscenze. No, ma lui tra l'altro dice ho messo lì delle persone, anche bravo, gente della società civile, no? Ha messo per esempio la capogruppo adesso è Maruska Piredda, quella ve la ricordate, una delle pasdaran delle lotte sindacali dell'Alitalia, no? Quindi dice ho messo persone che non aveva mai fatto politica, l'ho premiato, ho messo lì e guardate che mi ha fatto, sono arrabbiato. Ma secondo me, certamente lo scouting è anche un po' però il sistema, secondo me è un sistema talmente corrotto a quel livello, nel senso di troppo danaro, bisogna mettere 0 euro, se uno mette 0 euro non c'è neanche l'occasione per chi si trasforma in ladro di poter rubare un centesimo, però insomma rimane della mia idea. Insomma, avete visto ieri Crozza, vi faccio sentire un pezzettino sulla Finocchiaro, cioè aveva lì la Finocchiaro la questione delle bidelle parlamentari e bidelle, poi anche il Monte Paschi, sentite Crozza. Senta Finocchiaro, manca ancora un mese per perdere le elezioni dopo il Monte dei Paschi. Finocchiaro, Finocchiaro, dopo il Monte dei Paschi avete qualche altra puttanata da giocarvi come jolly? Così. Senta Finocchiaro, è vero che al prossimo Palio di Siena i Fantini correranno in groppa dei dirigenti del PD? Scusi Finocchiaro, ma il PD dice di non essersi accorto di niente, di quello che succedeva al Monte dei Paschi. Ma chi ve l'ha scritta la linea difensiva? Rutelli? Finocchiaro, sulla faccenda delle parlamentari, che non sono bidelle, io sono d'accordo con lei, obiettivamente come si fa a paragonarle? E le bidelle lavorano, cazzo. Altro no. 24 mattino. Ma chi vuole sbranare Bersani? Loro che con la Banca di Siena e i nostri soldi si sono sistemati se stessi e le loro famiglie. Siamo noi genitori di figli laureati col massimo dei voti, senza lavoro e senza futuro, che ci risbraniamo questi parassiti miserabili, ladri e incapaci. Io sono Andrea, mi alzo tutte le mattine alle 6. Per andare a fare il rappresentante, per andare a rapportarmi con la gente, basta tasse, basta tasse, basta tasse. Caro Milan, ti lamenti tanto che i fatti sono scomparsi dalla campagna elettorale, ma in realtà tu sei il primo che cerca sempre la frase effetto, la butade. Il problema siete voi, tu e quel decerebrato di Cruciani. Italiani ingrati. Anche Berlusconi nel suo ventennio ha fatto qualcosa di bene. Ha inserito in Italia il termine mi consenta. Vorrei solo dire al popolo italiano di farsi una cultura politica. Una cultura politica. Ci vuole una cultura politica. Perché l'italiano è bigotto. Qui c'è un signore che ha fatto del bene all'Italia. Sì, è vero. Avrà aumentato le tasse, ma è stato costretto. Qui ci vogliono 1000 monti, non uno, 10.000 monti. Ho appena sentito Mario Giordano su Quinta Colonna tutte le liquidazioni che danno i nostri parlamentari che non ci saranno più. Ma cosa aspettiamo a fare una rivoluzione? Ciao, sono Angela da Vercelli, incazzata nera. Velenosa. Carissimo Milan, parli sempre di banche, ma parla un po' di pensione, che la gente lavora e non sono tutti uguali. C'è gente che ha lavorato 35-40 anni e deve andare in pensione, quello devi parlare. Vabbè, parleremo anche di quello, ma ci sono tante trasmissioni, Radio 24, la nostra Deborah Rosciani parla spesso di pensioni, anche Focus Economia con Sebastiano Barisoni, va bene. Siamo qui con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e Paola Saluzzi di Sky TG24. Oggi Paola, di che parlerai? Non te lo chiedo mai. Oggi pensavamo di parlare di vacanze. Di vacanze. Di settimana bianca, di e settimana... di dove passare e di ricette per la cioccolata calda. Però credo che parleremo di politica. Ah, ecco appunto. Sì, è stata una scelta, una scelta, per un attimo ci ho creduto, di settimana bianca. Allora, Luca, dici, ci sei cascato anche tu con Corona. Io hai visto. Oggi sul numero di Vanity Fair c'è anche Corona. C'è anche, cioè non nel senso, non interviene. Ma come starà Corona? Com'è possibile che nessun parlamentare è ancora entrato in carcere e poi a spiattellare tutto in una bella intervista sui giornali? Succederà. È uno dei misteri. Comunque, no, quello che voglio segnalare oggi mi ha colpito l'articolo di Vanity Fair, del numero di Vanity Fair, è un bel reportage dal Mali, paese tra l'altro dove io sono stato a Bamako qualche giorno. Perché lì ce lo dimentichiamo che siamo in guerra, si può dire questa parola, siamo in guerra in senso lato? Sì, si può dire. Cioè no, perché sai, se no poi le polemiche, le solite, l'Italia ripudia la guerra, eccetera. Delle cose terribili ho letto su questo reportage. Soprattutto cercare di dare uno sguardo realistico a quella che è la situazione e soprattutto a quella che è l'opinione dei civili locali, che in realtà è brutto dirlo, ma sono contenti dell'arrivo dei francesi, perché la situazione è stata a lungo insostenibile e certo non voglio dire che difficilmente questa cosa sarà risolutiva, perché poi violenza genera violenza, però è sempre facile dirlo, è molto difficile trovare alternative, soluzioni alternative quando un regime, una dittatura totalmente illegale, abusiva, schiaccia la vita dei civili. No, ma anche perché quelli che si erano insediati lì, insomma, sono degli estremisti che non solo hanno bruciato i libri rari quando sono andati via da Timbuktu, da una delle biblioteche più storiche del mondo, non solo dell'Africa, ma hanno anche tagliato mani, e ci sono anche le testimonianze appunto che voi pubblicate su Vanity Fair. Hanno applicato la sharia in maniera molto molto dura, hanno appunto amputato arti alle persone, a chiunque tentasse in qualche modo di opporre un qualsiasi tipo di resistenza. Cioè queste erano le persone che erano lì insediate, che sono state cacciate dai francesi. Vedi, il valore, mi permetto, di un settimanale che in realtà molto spesso ci abitua a questo, per fortuna, quindi direttore grazie, e non è una sviolinata. Grazie a voi. Ma è un settimanale che generalmente si occupa anche di altro, cioè, per cui vediamo in copertina da Jodie Foster a George Clooney. A bolle, eccolo lì, a bolle. E di raccontare tutto questo, perché noi continuiamo a soffrire del mal di chilometraggio. Noi, in un mondo che si presuppone globalizzato, continuiamo a soffrire del mal di chilometraggio. Cioè, poiché accade lontano da noi, non lo sapevamo. Siamo degli altri che se ne vanno all'insaputa, capisci? Non lo sapevamo. No, ma su questo il giornalismo italiano sulla cultura degli esteri è veramente patetico. Insomma, in confronto in Francia, in Gran Bretagna, delle vette straordinarie e poi un'ignoranza globale voluta dalla gente che dice il Mali, ma è tanto lontano. Bravo. Che poi anche perché tanto. Posso dire che il riscontro fra i lettori è di interesse, di passione per questa cosa. Ma certo, come chi racconta delle cose che nessun altro racconta. Però vi voglio sottoporre questa notizia, l'ha trovata in prima pagina del Secolo XIX, parte da uno spunto terribile, perché fu un episodio di cronaca nera quando in un gruppo rock di ragazzini a Genova, forse ricordate, due persone decisero di uccidere, poi non uccisero ma ferirono con 40 coltellate una terza persona, un ragazzino, insomma il chitarrista, che aveva 16 anni. La notizia però è questa: il giudice ha deciso, avete educato male i figli, i genitori delle persone che hanno accoltellato il loro amico, e quindi dovrete pagare 822.000 euro alla vittima, perché queste persone hanno accoltellato il loro amico perché voi li avete educato male. Educarono male i figli, i genitori condannati a pagare 822.000 euro. Per carità, non sappiamo nulla della sentenza, ma a me spaventano sempre quando leggo queste cose. Non lo so, direttore, che ne pensi? Ma sai, io avendo due figli ho i brividi mentre racconti questa cosa, e basta, perché immagino che il giudice avrà avuto le sue motivazioni, avranno fatto delle indagini anche sulle famiglie. Detto questo, sì, ma come fai a quantificare? Veramente i genitori possono sempre

quando si parla di stipendi dello sport. Gioca l'asso Berlusconi, compra per 20 milioni Balotelli, mentre lo Stato taglia del 75% le politiche sociali. Il paragone sembra un po' azzardato. Insomma, comunque, la Gazzetta dello Sport mette Balo is back, il titolo della Gazzetta, ovviamente a tutta pagina c'è Balotelli, e chiude anche con Filippo Facci il suo appunto su Libero, a dire: il Milan ha comprato Balotelli, allora io voterò Berlusconi, urg. Ecco, diciamo che un tizio del genere, uno che ragiona così, io vorrei proprio conoscerlo. Lo scrivo perché diamo tutti ormai per scontato che il Cavaliere sappa sedurre categorie che noi alfabetizzati non possiamo raggiungere né comprendere. E qui segue in genere la citazione di un vecchio detto berlusconiano secondo il quale la media degli italiani è un ragazzo di seconda media che nemmeno siede al primo banco. Insomma, Filippo Facci scrive: io è davvero così? Non ci credo, non ci credo che un tizio voterà PDL perché il Milan ha comprato Balotelli. E se mi sbaglio, io questo tizio voglio conoscerlo. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Siamo qua alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo intanto parlare di una notizia di cronaca che già negli anni abbiamo seguito a Radio 24. Per questo voglio salutare Patrizia Moretti, che è la mamma di Federico Aldrovandi. Buongiorno signora Patrizia. Buongiorno. E benvenuta. Allora, Federico Aldrovandi, forse gli italiani se lo ricordano, il 25 settembre del 2005, durante un fermo di polizia, morì. E per quella vicenda quattro poliziotti sono stati condannati fino alla Cassazione per le violenze per il violento fermo, sono stati condannati per eccesso colposo nell'omicidio colposo. Ora, la notizia di ieri è che sconteranno tre di questi quattro, sconteranno la parte residua di pena, 6 mesi in carcere. Lei, signora Patrizia, è una cosa che, se non sbaglio, chiedeva da tempo, cioè quindi sarà, è vero che il carcere non si augura a nessuno, ma in nome di una giustizia, di una sentenza, sarà soddisfatta di questa decisione? Sì, cioè sono contenta che il Tribunale di Sorveglianza abbia preso la decisione di non concedergli le misure alternative, le agevolazioni, e proprio per il fatto che indossa una divisa e quindi il reato è stato considerato ancora più grave. Questo però è per 6 mesi, sono questi i mesi residui di pena. Oggi sui giornali è scritto chiaramente che il Ministero dell'Interno e la Polizia non intende prendere altri provvedimenti, come per esempio il licenziamento, eccetera, per cui queste persone, finita la pena, torneranno a indossare la divisa. Questo io lo vengo a sapere da lei in questo momento, non ho ancora visto i giornali questa mattina e questo mi dispiace, trovo anche decisamente assurdo che vada così, cioè persone che hanno ucciso un ragazzo senza motivo, che vanno in carcere no, cioè questo non mi piace proprio, guardi, non l'accetto questa decisione. Cioè lei avrebbe voluto, lei vorrebbe che queste persone non indossassero più la divisa? Precisamente, sì, è esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo sempre chiesto. Questo anche se, come vale per tutti e deve valere per tutti, una volta scontata la pena una persona si considera, come dire, redenta, rientrata nella società. Beh, io penso che dipenda dal lavoro che si fa, cioè un'attività così delicata, anche pericolosa, hanno ucciso una persona, cioè, credo che perlomeno non debbano essere messi nella condizione di ripetere quello che è già avvenuto, non ci credo, insomma, secondo me, proprio per me, io la vivo come un'offesa, è la realtà e penso che sia un insulto anche per le persone oneste dentro la polizia. Quindi lei si sente anche in qualche modo di fare un appello? So che con il capo della polizia, per una vicenda che tra l'altro tra poco ricorderemo, Paolo Manganelli le aveva scritto chiedendo scusa per una vicenda legata a suo figlio. Si sente di fare un appello? Paolo Manganelli l'abbiamo proprio visto, è venuto qui appunto a Ferrari in occasione della festa della polizia e abbiamo parlato, cioè è stato un incontro secondo me proficuo, sincero, cioè proprio a livello anche personale, Non so, mi hanno sempre detto che comunque la decisione definitiva aspettava le commissioni di disciplina. Ma le hanno detto e l'ha assicurata il capo della polizia che non avrebbero più indossato la divisa, non credo. No, assolutamente. Cioè, la formalità da parte sua e anche del ministro Cancellieri, che abbiamo visto più di recente, è stata le commissioni di disciplina, valuteranno attentamente regole, eccetera. Però, insomma, secondo me, se le regole consentono a questi individui di rimanere in polizia, sono regole sbagliate. Io guardi, le dico quello che scrivono oggi tutti i giornali, cioè il Viminale non li licenzia, cioè il Ministero dell'Interno, e quindi tra sei mesi torneranno in servizio. Questo almeno proprio, ma torneranno in servizio, questo scrivono i giornali. Ma magari non lo so, magari cambieranno le cose o magari non verranno messi operativi sul territorio, sa che ci, però questo è quello che al momento raccontano i giornali della vicenda. Non la prende bene. Senta, noi abbiamo provato a chiamare Paolo Forlani. Paolo Forlani è uno di questi agenti che tra l'altro dopo la vicenda negli anni si rese anche protagonista di una serie di, come definirli, scrisse anche su un sito Facebook, credo, degli insulti nei suoi confronti. Sì, nei confronti miei e di Federico. Lui e chi gestiva quel sito che si chiamava Prima Difesa. Noi abbiamo provato a chiamarlo per quelle cose misteriose che accadono, per cui a volte anche nelle redazioni di giornali capita di dare le notizie ai protagonisti prima che le vengano a sapere magari dal loro avvocato. Elisabetta Fusconi l'ha chiamato e gli ha dato la notizia del carcere in diretta. Sono pochi secondi, perché sentite. Senta, io la chiamo perché ho letto la notizia della sentenza del tribunale. Cosa dice? Non lo so, non l'ho ancora letta. La Corte ha stabilito il carcere. Guardi, la richiamo dopo. Ecco, signora, sono pochissimi secondi. Come immagina, poi abbiamo provato a richiamare, ha risposto prima la moglie dicendo che non poteva più parlare e poi niente, non siamo più riusciti a entrare in contatto con lui, anche perché la sentenza è immediatamente esecutiva. Lei nei confronti degli agenti in carcere, anche di Paolo Forlani, cosa prova? No, cioè, secondo me meritano il carcere, chi più di loro. Cioè, come diceva lei, il carcere non si augura a nessuno, ma a loro sì. Ecco, questo. Cioè, penso che sia una forma anche, cioè, per me è importante, come vi ho detto prima, mi interessava molto anche la fase successiva, ma penso che sia importante, sono solo sei mesi, sono pochissimo, ma è anche altamente simbolico. Io che facciano carcere, perché il carcere è considerata la forma più grave di punizione per quello che hanno fatto, e è importante perché è una condanna non solo mia, non solo del tribunale, ma è una condanna civile, e questo per me conta più di tutto. Però mi sembra che questa, in qualche modo, a me dispiace anche che lei abbia preso in diretta e da noi, che sia mitigata in qualche modo il fatto di aver visto un diritto, a suo modo di vedere, garantito da un tribunale, ma poi mitigata dal fatto che tra sei mesi c'è la possibilità che ritornino in servizio, e questa cosa mi sembra che le pesi più. Pesa molto, ha ragione, cioè, e penso che mi sento un po' presa in giro, e mi sembra che vengano presi in giro anche tutti i tribunali e tutte le sentenze, che dalla prima sentenza, quella di primo grado, secondo, terzo, poi tutti i depistaggi e poi questa decisione della condanna, mi sembra che tutto questo venga vanificato, tutto il lavoro di sette anni, il dolore mio, della mia famiglia, di tutti gli amici di Federico, più il lavoro importante che ha svolto lo Stato stesso, i tribunali, gli avvocati che ci hanno aiutato tutto questo tempo, il mio avvocato in particolare, ma tutti, cioè, è tutto inutile allora, è inutile, sono molto arrabbiata. Lei ha mai avuto modo di incrociarli, immagino, in tribunale, ma di incrociarli anche fisicamente, di avere anche degli scambi, soprattutto anche con questo agente Paolo Forlani? No, cioè, li ho incrociati qualche volta, poche volte in giro per strada, in città, cioè li ha incrociati, nel senso li ha incrociati proprio fisicamente passeggiando? Sì, esattamente, una volta ho incontrato Forlani, quello che mi ha insultato in un bar, l'ho scritto sul blog, ho detto che mi mancava il respiro perché avevo incontrato l'assassino di mio figlio, uno degli assassini di mio figlio, e lui mi ha querelata. Cioè Forlani mi insulta su Facebook, mi ha querelata nel corso di questi 7 anni molte volte, decine di volte, ogni volta che esternavo un parere, mi ha querelata. Cioè non è che le cose siano trascorse tranquillamente in questo tempo. Cioè il clima qui a Ferrara lo viviamo quotidianamente. E come anche sono andate quelle, di molti loro amici. Come vanno quelle querele? Come procedono? È stata magari anche condannata? No, quelle che mi ha fatto Forlani sono tutte archiviate in partenza, cioè praticamente i giudici le hanno ritenute non fondate e sono state tutte archiviate. Io ho una querela in corso da parte del primo pubblico ministero che doveva recarsi sul posto quella mattina, poi invece non c'è andata. E per questa sua accusa lui la querela. Diverse attività, in pratica mi ha querelato perché io l'ho detto. Senta, lei in conclusione si sente in qualche modo di fare un appello, se vuole, al capo della polizia o ai vertici della polizia, ai vertici del ministero, per quello che succederà tra 6 mesi? Sì, credo che loro debbano una risposta non solo a me, ma a tutte le persone che con me hanno condotto questa battaglia civile nel nome di Federico, ma che coinvolge anche molte più persone. Credo che questa decisione sia altamente simbolica. Se la polizia non assumerà nessun provvedimento e in pratica li perdona, credo sia molto grave. Io gli chiedo di valutare seriamente tutto questo. Io aspetto cioè, se lei mi dice che è proprio così scrivo, la decisione è da uscita o stanno per... Beh, guardi, i giornali, ripeto, per esempio io davanti Repubblica, il titolo è questo: in cella i poliziotti che lo uccisero, il tribunale ha detto non si sono mai ravveduti, ma il Viminale non li licenzia, tra 6 mesi torneranno in servizio. Però sa, le cose possono cambiare da qui a 6 mesi, magari in realtà per il momento non c'è licenziamento. Allo stato dei fatti i giornali raccontano come è adesso. Io credo che sarebbe veramente sbagliato, cioè per me è molto doloroso e anche per molte persone. Io penso che se lo Stato li perdona, in realtà se non assume provvedimenti è un sostanziale perdono, è come se avallasse il loro comportamento. Quindi non mi piace proprio. Non le piace. Noi intanto le facciamo tanti in bocca al lupo, seguiremo questa vicenda ovviamente anche per il dopo. La ringrazio ovviamente, tanti auguri a Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, che è tornata oggi sulle pagine dei giornali come racconto, perché come ha detto, 3 dei poliziotti condannati per l'omicidio, per eccesso colposo nell'omicidio colposo di Federico, dovranno scontare questi 6 mesi di pena residua in carcere. Per il 4° poliziotto invece si deciderà, credo, a febbraio, e quindi tra qualche giorno. Ci fermiamo per la pubblicità del meteo. Tra 4 minuti parliamo di tasse, le tanto amate tasse da parte degli italiani. Tra l'altro tra poco scade 2 giorni, scade il canone della RAI da pagare, identificata come la tassa più odiata da molti italiani secondo alcuni sondaggi. Voi credete alle promesse di riduzione delle tasse che sono fatte da più parti? Certo, siamo in campagna elettorale. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:34 minuti. Le tasse. Beh, in campagna elettorale di tasse si parla molto. In campagna elettorale tutti più o meno nei programmi, è abbastanza anche lecito, promettono di tagliare le tasse. Allora, cari italiani, se volete 800 24 00 24, intervenire in diretta, diteci secondo voi qual è la tassa che odiate di più, la tassa che proprio non capite. E secondo voi anche qual è la tassa per le quali c'è la promessa in campagna elettorale: taglieremo, che ne so, l'IRAP, l'IMU, l'IRPEF. A quale promessa elettorale credete di più? Tra l'altro vi ricordo oggi Mario Monti, presidente del Consiglio, sarà ospite alle 9 di Simone Spezia, ma intanto vogliamo parlarne con Michele Boldrin, che è il cofondatore di Fare per fermare il declino. Buongiorno, professor Boldrin. Buongiorno. Tra l'altro è direttore del Dipartimento di Economia Washington University di St. Louis, e saluto anche un candidato alla Camera per la circoscrizione Lombardia 2, con Monti. Gregorio Gitti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno avvocato. A lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Boldrini, intanto lei la pagherà il canone della RAI, lo paga il canone della RAI, perché tra due giorni scade, ha fatto un'iniziativa anche molto molto pubblicizzata. Insomma. In Italia, quindi... Non ho capito. Non vivendo, io non lo pago per la semplice ragione che non vivo in Italia. Non ha un appoggio, una casa, sa che basta avere un apparecchio. Suppongo che mio padre lo paghi, sì, la nuova tassa di possesso sul fatto che ha una televisione in casa. Come noi abbiamo evidenziato, evidentemente fra un po' metteremo la tassa sulla lavatrice, la lavastoviglie, il frullatore. È quella non la so tassa. A chi andranno. Beh, andranno allo Stato e poi distribuiti, non lo so. È quella la tassa più... Beh, anche, certo. E lei le sembra legittimo? Ma io non lo so. Non ho opinioni. Come sa, siamo in par condicio, professor Boldrini. Il conduttore non può dare opinioni, indirizzi di voto. Siamo dei robot. Posso osservare due cose che dal punto di vista logico era appunto l'ennesima tassa, che se poi era una tassa sul possesso della televisione, visto che la televisione viene usata per guardare svariati canali TV, allora la logica sarebbe cominciare a finanziare pubblicamente tutte le televisioni che trasmettono in Italia, un totale assurdo. E poi abbiamo aggiunto che forse è il caso di smettere di avere la televisione pubblica sussidiata con le tasse degli italiani. Mm. E tra l'altro, guardi, secondo sondaggi è forse la tassa più odiata dagli italiani, quella del canone della RAI, anche se è di modesta entità rispetto magari ad altre tasse, però... Però è violenza. È violenza addirittura. Beh, insomma, senta, cioè, è assurdo, no? Cioè, ti compri un elettrodomestico con cui puoi fare di tutto, no? Assolutamente di tutto, guardare chiunque, e viene utilizzato per tassarti e trasferire i proventi a una entità pubblica controllata dai partiti, che serve i partiti e serve a loro per trasmettere, come vediamo in questi giorni, le opinioni di chi sta al potere e non degli altri. Lei capisce anche, per esempio, sa, ci sono molti leghisti che non ne fanno neanche mistero e siedono in Parlamento e vadono questa tassa, non la pagano da anni. Lei li capisce, si spingerebbe a questo? Ma guardi, io capisco in parte la disobbedienza civile quando è organizzata, quando ha una finalità, e specialmente quando è per appoggiare un'iniziativa politica per cambiare lo stato di cose esistenti. La evasione per sé no, io non la capisco, da questo punto di vista sono molto tradizionale, credo che occorra agire con durezza per cambiare le leggi quando non vanno bene, e dopodiché quando si vive insieme le leggi, anche quelle che non piacciono, vanno accettate. Allora, intanto i nostri ascoltatori anche via SMS ci dicono chi l'IRAP, chi l'IMU, chi il canone della RAI, chi l'IMU sulla prima casa, chi il bollo auto come tassa più odiata. Vorrei chiedere però a Gregorio Gitti questo, e cioè il fatto che anche ieri su Twitter il presidente del Consiglio Monti ha detto, ribadisco, col piano tasse potremo sgravare, non pagheranno l'IMU il 75% delle famiglie con almeno due figli a carico già dal 2013. Senta però, professor Gitti, non sono le classiche promesse elettorali, cioè perché dovremmo credere che si abbasseranno le tasse quando l'ultimo governo, lei ci dirà, per necessità le ha aumentate? Allora, la proposta di Monti si inserisce con coerenza rispetto al suo piano. Egli è stato chiamato nella fase più acuta di una crisi che rischiava di mandare all'aria la finanza pubblica italiana. Nel momento in cui la botta più calda è stata tamponata, e ne è una prova la riduzione del differenziale del tasso di interesse rispetto al bond, al prestito obbligazionario sovrano di riferimento, cioè il Bund. Questo consente innanzitutto di rimodulare, diciamo, il costo soprattutto degli interessi passivi, e quindi ottenere un cuscinetto a cui attingere per rilanciare una revisione fiscale che abbia come due obiettivi impresa e famiglia. Di più, si accompagna ad una riduzione della spesa pubblica che deve essere focalizzata su un obiettivo di ristrutturare il settore pubblico per ridurre il debito. Come? Faccio solo un esempio, ci possono essere molti esempi, ma do questo esempio fondamentale. Il costo medio della sanità in Lombardia ha un gap di 520 milioni di euro di sottofinanziamento rispetto al benchmark, alla media nazionale, perché la regione più popolosa, e nonostante come dire, le recenti indagini penali abbiano visto come dire, quanto grasso era tolto dall'amministrazione regionale, perché la regione più popolosa garantisce comunque un livello di efficienza con un grado maggiore di efficacia e di meno spesa. La sanità è tutto un tema da riorganizzare. Beh, certo. Un altro tema, perché il costo per dipendente pro capite in Lombardia è di 21 euro e in Sicilia è di 353 euro. Però questo con le tasse c'è un enorme spazio per rimodulare, certo, non con tagli lineari, ma con interventi mirati e specifici, il peso del debito pubblico. A questo sì, anche sul rivedere la spesa pubblica, però io vorrei chiedere al professor Boldrin se crede alle promesse che vengono fatte da più parti d'Italia. Per esempio Monti che dice via in parte l'IMU già da quest'anno, via in parte l'IRAP e giù l'IRPEF, sono promesse che vengono fatte? Sono cose... Ma lo dice con un grado di dettaglio un po' più... Beh, certo, sì, io ovviamente, chiaro, lo dico, non è che possiamo entrare poi nei dettagli sul come, poi alle 9... No, dice tutto fino a un massimo di 800 euro, raddoppio delle detrazioni per ciascun figlio a carico da 50 a 100 euro. Però se è sempre lì... Una detrazione per gli anziani che vivono da soli fino a 100 euro. La questione... No, no, ma... Casa da 200, ma certo, ma queste sono le questioni che però... bisogna essere precisi, però. No, ma certo, essendo... Bisogna dire agli italiani le cose come stanno. Benissimo, questo è quelle che sono le riduzioni promesse, ovviamente, nel momento in cui uno fa delle riduzioni e che saranno mantenute, c'è una coperta che però è corta in qualche modo. Non è come Berlusconi che dice l'ICI la cancello e poi lascia i comuni senza fondi per i servizi sociali. Gitti, mi lasci chiedere a Boldrin se crede e come siano fattibili queste cose, perché se uno la coperta la tira da una parte, se ci sono meno entrate dallo Stato in qualche modo ci si scopre da un'altra parte, a meno che non si trovi una soluzione. Lei, Boldrin, crede che sia fattibile questa soluzione? Ma guardi, io le dico anzitutto che questa soluzione, per quanto precisa, è poca cosa. Mi sembra appunto una reazione elettorale. Il gruppo che si è raccolto attorno a Monti si è accorto che Berlusconi cavalca la tassa IMU imposta erroneamente da Monti, e lo spiego poi perché, e ha deciso di entrare nel dibattito facendo la promessa italiana. Peccato che è poca cosa, a fronte di questo non ci dicono, ho sentito vagamente perché la connessione è un po' alterna, insomma mi è arrivata solo parte dell'intervento di Gitti, che promettono i soliti riduzioni di costi non ben specificati nelle spese sanitarie, invece non ci dicono esattamente per quali ammontari e che cosa va tagliato dalla spesa pubblica. C'è parecchio da tagliare, noi abbiamo proposto molto esplicitamente in dettaglio circa 6 punti di prodotto interno lordo di spesa pubblica che possono essere tagliati senza nemmeno entrare in sanità, scuola, previdenza, dove anche lì ovviamente ci sono dei recuperi da fare. Mi faccia dire una cosa, sì, però è erroneo dire, quanto sentito, se ho inteso bene da Gitti, che tutta la riduzione dello spread si deve agli interventi di modificazione dello spread, si deve agli interventi della Banca Centrale Europea. Basta confrontare la riduzione dello spread italiano con la riduzione dello spread spagnolo, avvenuta nello stesso periodo di tempo. In Spagna, che io sappia, non ha governato Monti ma qualcun altro, ebbene lo spread spagnolo è calato più o meno quanto quello italiano, circa 50 punti base di differenza, cioè mezzo punto percentuale. Quindi è forse quel mezzo punto percentuale che dobbiamo a queste imposte. E vorrei dire, queste imposte si sarebbero potute tranquillamente evitare. Facciamo un'operazione molto semplice, vorrei chiedere a Gitti se questo è nel loro programma di governo, perché nel nostro c'è. Noi abbiamo proposto molto chiaramente di rimodulare il trattamento economico, previdenziale e anche di benefits di tutta l'alta burocrazia pubblica, dai segretari comunali al segretario generale del Quirinale, parametrandola, che so, a quella spagnola, dove hanno lo stesso reddito per capita nostro, o a quella inglese. Calcoliamo che così facendo, all'arco di qualche anno, si possono tranquillamente risparmiare fra il mezzo punto e il punto di PIL, ossia fra i 7 miliardi e i 15 miliardi. Questo è tre volte il gettito IMU. Cioè rivedere il trattamento previdenziale. Tranquillamente. Si sarebbe potuto fare tranquillamente nell'anno che Monti ha speso il governo e non è stato fatto. Che non l'ha fatto. Allora, su questa domanda, professor Boldrin, devo dare le informazioni sul traffico. È una domanda specifica e circostanziata. Se c'è nel programma, ci risponderà tra poco Gitti, quello della revisione, di rimodulare il trattamento previdenziale per gli alti burocrati per recuperare tra i 7 e 15 miliardi, cioè 0,5-1% di PIL nelle stime di fare per fermare il declino. Allora, eccoci qua, siamo con Gregorio Gitti, candidato per Scelta Civica con Monti per l'Italia in Lombardia, e Michele Boldrin, che è il cofondatore di Fare. Allora Gitti, come diceva Boldrin, a domanda specifica, c'è questo nel programma? Ma vorrei ricordare a Boldrin, che forse è distratto e non se ne è accorto, che il governo Monti ha fatto la riforma delle pensioni che l'Italia aspettava da 15 anni. Quindi siamo intervenuti con molta efficacia e l'accoglienza anche a livello europeo di questa pensione, di questa riforma delle pensioni è stata molto Boldrin? Positiva. Cioè, non io c'è, farei, però no. Non se posso parlare, perché ho sentito anche delle cose ridicole. No, però Gitti, Boldrin dice parole pesanti. Perché non risponde alla mia affermazione? Guarda che la riforma pensioni che voi avete fatto è ridicola. Se lei si identifica, se sta dicendo una riforma pannella, veramente. Questa è la sua opinione. Questa no, è la sua opinione, non ci guarda, è riuscita a ridurre il peso pensionistico. Un attimo, Boldrin. Però Gitti risponda. Allora, sulla questione della riforma delle pensioni, è giudizio di Boldrin è ridicola. Gitti dice di no. Però Gitti risponda alla domanda: se quella che ha chiesto Boldrin, se avete in previsione la revisione del trattamento previdenziale degli alti burocrati, che potrebbe far risparmiare per Boldrin fino a 15 ipotetici miliardi. Sì, no, io inviterei, rispondo con due affermazioni, se mi è consentito svolgere completamente il mio pensiero. Il primo punto è che invito a studiare con attenzione, e quindi non con un'affermazione che è uno slogan, la riforma delle pensioni che riguarda sia il settore privato che il settore pubblico. Io rilancio sul tema del welfare fiscale, che oggi è costituito da 470 voci di sconti e di agevolazioni. Non se ne parla, queste 470 voci di sconti e agevolazioni costituiscono un ammontare di 160 miliardi, che possono essere concentrate molto più efficacemente su quattro aree di emergenza: sulle fasce di popolazione povere o a rischio di povertà, sul finanziamento del fattore famiglia, sull'incentivazione del lavoro giovanile per uomini e donne, e sul sostegno alle start-up in generale, in particolare nei settori però, strategici, mi perdoni, Gitti, ed innovativi. Questo è un aspetto, diciamo, è uno degli aspetti, ma sulla... No, è uno degli aspetti, però gli aspetti più qualificanti. Sì, ma sulla domanda specifica, non lo fare, no, allora, sembra bene che il presidente dell'INPS continui a guadagnare 1,2 milioni, mentre il suo no, effettivamente, però Gitti, la questione è, cioè, ci risponda se c'è nel programma o no. Detto tutta la premessa sul welfare, che sono importanti, però la domanda specifica di Boldrin è una domanda alla quale può dare una risposta. Allora, sulla domanda che riguarda tutta la burocrazia, il governo Monti è già intervenuto fissando un tetto limite al compenso. Ci sarà oltre questo anche un intervento a livello di previdenza. La previdenza è solo una parte della... Guardi, io non ho parlato solo di previdenza, anche previdenziale. Ciò che conta è il trattamento salariale di benefici. Le ripeto, com'è che il direttore generale del Tesoro guadagna 5 volte il suo analogo in qualsiasi altro paese europeo? Tra l'altro questo tetto è stato messo, ma non lo so, forse non è rispettato. Ci sono sempre i cavilli, Gitti, in Italia, purtroppo, ci sono sempre i cavilli su cui... No, il problema sono le leggi che vanno fatte rispettare. Il problema è che non vi stiate impegnando, siccome il governo Monti è il governo dell'alta burocrazia statale, non toccherà mai gli stipendi. Sto dicendo, non toccherà mai gli stipendi, i trattamenti economici di questa cassa. Ma posso parlare? Dica. Allora, c'è di più, cioè non c'è solo l'alta burocrazia. E quindi è evidente che è già nel segno le proposte che Monti ha fatto anche sull'attività della Commissione Giarda e di Enrico Bondi sulla spending review, sono state già identificate e attuate, ma c'è molto di più. C'è una regione dove ci sono stati nominati un numero assurdo di dirigenti. Noi abbiamo in questo momento, e do questo dato, dove in Sicilia ci sono su 21.000 dipendenti pubblici 2.300 dirigenti, ecco. L'11% del totale. Che in Lombardia sono 240, che si fa? Meno dell'8% sa del totale. Sa che entra nel settore pubblico? Unità. Che questi si fa? Questi sono i punti veri. Questi sono i punti. Ho capito, ma Gitti, che si fa? La pubblica amministrazione che è fuori controllo. Benissimo, fuori però controllo, Gitti, di fronte a questi numeri della pubblica amministrazione, che si fa? Li si può mandare a casa? No, giammai toccare i dipendenti pubblici, non si può. La politica deve avere il coraggio di incidere il bisturi anche su queste cose. Io non ho mai sentito dire queste cose, né a Giannino, né a Boldrini, né a... Ma non so, Boldrin, beh, non so, ai rappresentanti del centrodestra. So, Boldrin, sull'aspetto delle esuberi nella pubblica amministrazione, lei che guardi, noi, dunque, allora, constato anzitutto che per quanto riguarda la burocrazia, guardi, io non parlavo solo di trattamento previdenziale, sì, ma anzitutto di trattamento salariale, vari benefits, auto, numero di segretari, eccetera, il trattamento previdenziale è solo parte di questo. Bene, constato che non intendono farlo, è una misura molto precisa, allora, molto Boldrin, rapidamente. Ma guardi, non ha risposto, ma non, scusi, no, non ha risposto, ma andiamo avanti. Gitti dice che in realtà lo vogliono fare. Vabbè, non lo vogliono, lo vogliono fare, vedremo se lo fanno. Mi domando come mai Monti non l'abbia fatto, sarà stato perché aveva il governo pieno di questi dirigenti che continua a percepire a tale trattamento, tanto che nella finanziaria dell'anno scorso hanno addirittura aggiunto il piccolo comma che diceva che il direttore generale del Tesoro al tempo, finché faceva da viceministro e poi da ministro, continuava a maturare i suoi diritti previdenziali. Andiamo avanti. Per quanto riguarda i fenomeni come la Sicilia, eccetera, beh, noi diamo una risposta molto più precisa e molto più chiara. Invece di fare vaghe promesse, beh, diciamo che va ripresa in mano seriamente la questione del federalismo fiscale. Sì. Perché, guardi, e questo vale anche per tutti gli altri esempi che faceva Gitti, e vale in particolare per l'utilizzo di tasse come l'IMU, l'ICI, eccetera, le quali vanno attribuite alla potestà locale. E occorre però riprendere in mano seriamente, ripeto, e non nella maniera folle in cui l'ha fatto il governo Berlusconi e la Lega da un lato, ma con l'appoggio dei centristi che stanno con Monti dall'altro, la questione del fatto che in Italia esiste un'enorme differenza nel finanziamento delle regioni e nella maniera in cui spendono i loro soldi. Allora, noi su questo siamo molto espliciti, questo include i dirigenti siciliani, i calabresi, e cioè che è tempo di muoversi, si può fare nell'arco di una legislatura, verso l'attribuzione di competenza fiscale diretta alle regioni e di responsabilità delle medesime nei trattamenti economici, nel finanziamento delle loro spese di personale. Che vuol dire? Dopodiché, se i cittadini siciliani intendono continuare a rovinarsi pagando tasse perché i loro politici a Palermo tengano a migliaia di dirigenti super pagati, bene, a noi sembra che se i cittadini siciliani questo lo gradiscono, lo facciano. Quello che no, però non è legittimo è che questa spesa assurda venga caricata su tutti. Allora, Alessandro, mi faccia sentire un ascoltatore. Alessandro dalla provincia di Pistoia, ce la facciamo a chiudere con lui perché dobbiamo chiudere tra un minuto. Alessandro, buongiorno. Lei che buongiorno, pensa? Molto velocemente. Sì. Mi fa un po' sorridere vedere Monti che si traveste da Berlusconi parlando di abbassamento delle tasse dopo che in nome dello Stato ha devastato l'economia reale e un popolo. La tassa, secondo me, più iniqua rimane comunque l'IMU, perché ha fatto della casa un incubo. L'IMU. Grazie Alessandro. Vediamo Cristiano là da Verona. Cristiano, sia veloce. Cristiano. Sì, volevo solo dire che secondo me dovrebbero mettere mano proprio il personale pubblico a tagliare, perché c'è stata un'ingiustizia tra il privato e il pubblico. Nel privato moltissime persone hanno perso il posto di lavoro, nel pubblico nessuno, e con la quindi fare tagli anche lì. Sì. Grazie Cristiano, anche se il pubblico, ricordiamo, è un settore diverso perché si accede per concorso pubblico. Questo lo dico perché sennò mi scrivono sempre i dipendenti pubblici aggressivi. Allora vi ringrazio, Michele Boldrin, cofondatore di Fare per fermare il declino, e Gregorio Gitti, candidato alla Camera per Scelta Civica con Monti per l'Italia. Vi ricordo che tra poco alle 9 ci sarà proprio il premier Mario Monti, ospite di Simone Spezia 9 in punto. Allora noi ci ritroviamo domani alle 6:30. 24 mattino.